È lunedì, uno splendido lunedì. È lunedì, ragazzi, è lunedì, è lunedì. Giù dalle brande! Benvenuti all'Early Bird Special. Ragazzi, è il weekend, è terminato. Aloha, passerottine e passerottine care. Le giornate si fanno corte, piccine, piccine, picciò. E e c'è anche l'ora legale. Le 7 del mattino sono ancora molto lontane. Per il momento c'è il vecchio Chuck Bird con l'Early Bird Special, che vi offre la prima tazza di caffè, la buona musica di Rock FM e qualche storia sulla vita delle rock and roll star. Come il periodo in cui Lou Reed e i Velvet Underground seminarono il panico tra le file dei hippies a San Francisco nel pieno del Flower Power. Ma ve la racconterò nei dettagli dopo che Huey Lewis and the News ci avranno spiegato di un altro potere, il potere dell'amore. The Power of Love. And the News, l'Early Bird Special. Ma non è di loro che vi parlerò questa mattina, ma di Lou Reed e i Velvet Underground, che nel 1969 fecero alcune date durante le 2 settimane che passarono a San Francisco, terra degli hippies, ancora nel pieno dell'estate dell'amore. Beh, i Velvet Underground non è che avevano molto a che spartire con i Figli dei Fiori, anzi, qualcuno li aveva persino definiti una band di death rock. Ma durante il loro ingaggio al Family Dog furono grandiosi. Purtroppo il pubblico non era molto sintonizzato su quello che la band faceva sul palco. Arrivarono centinaia di hippies con armoniche e tamburelli che suonavano insieme Velvet Underground. Moe Tucker, la batterista, si fermava spessissimo per le risate perché nessuno tra il pubblico andava a tempo. Lou Reed si muoveva in maniera fantastica, roba da far sembrare Chuck Berry uno zoppo. La cosa più straordinaria era che Lou Reed scriveva un sacco di canzoni come Sweet Jane, Sweet Bunny Brown e New Age. E cambiavano ogni sera, improvvisava sui testi di Sweet Jane, a volte erano divertenti, a volte spaventosi. A quel punto i Velvet Underground erano realmente ad un passo per diventare popolari. Peccato che tra Lou Reed e Mike Carb, presidente dell'MGM, la loro etichetta discografica, non corresse buon sangue. Lou diceva che alla MGM erano una manica di stronzi incompetenti. Alla MGM dicevano che Lou Reed era perennemente fatto di speed e così via. Forse anche per colpa del presidente Nixon in persona che lodò Carb per la risoluta posizione della MGM alla, testuale, musica per drogati. In una situazione del genere, a perderci furono, come potete immaginare, proprio i Velvet Underground. Thank you. c'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, in the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie. Like a song out of tune and out of time, all I needed was a rhyme for you. C'est la vie. Do you give? Do you live from day to day? Is there no song I can play for you? C'est la vie. C'est la vie, come dicevano Emerson, Lake e Palmer. È la vita. La vita è così, bisogna affrontarla giorno per giorno e a volte è meglio non preoccuparsi troppo del domani, di tutte le possibili conseguenze delle nostre azioni, di quello che diciamo e così via. Come diceva un vecchio saggio, tutte le grandi decisioni vengono prese sulla base di dati insufficienti. Pensate che una casa automobilistica americana, la Chevrolet, con tutti i suoi mezzi economici a disposizione e gli esperti di marketing strapagati, una volta mise in commercio una vettura chiamata Nova, senza accorgersi che in spagnolo, la lingua parlata in Messico, un mercato molto importante per la Chevrolet, Nova significa non va. Eccovi Pink Floyd, non a caso stamattina con una canzone che parla di soldi. Money. Money! Lunedì 5 novembre, sei sintonizzato su Rock FM. Questo è l'Early Bird Special e io sono Chuck Bird. E loro? E loro chi sono? Si chiamano Outlaws, la loro Ghost Riders in the Sky. Anche loro questa mattina all'Early Bird Special. The Cavalieri Fantasma nel cielo ancora ampiamente scuro di Milano. Ghost Riders in the Sky, Outlaws all'Early Bird Special, che in questo momento vede la presenza decisamente piacevole di Sheree, che in questo momento, come tutte le mattine, mi porto la mia tazza di caffè nero bollente. Mercy, Sheree.